7B. Ascolta e controlla. 1. Non avete un tablet? No, non ce l'abbiamo. 2. Non hai una maglia rossa? No, non ce l'ho. 3. Dove hai il negozio? Ce l'ha al centro, in via Roma. 4. Quando siete a Genova? Siamo a Genova lunedì. 5. Che giorno è oggi? È domenica.